Don, sono disperato, devo andare a un matrimonio e devo preparare una preghiera per gli sposi. Puoi scrivermi un pensiero tu, per favore? Dai, dai, ti prego, ti prego. Ok, dai, per questa volta ci provo. Ma non sarebbe più bello se preparassi un pensiero tu? Se invece hai bisogno di un pensiero per un battesimo o per un compleanno, puoi andare su Google, troverai siti e frasi per ogni occasione, sì, anche per le condoglianze. Recentemente ho letto un libro che si intitola Quello che non ho mai detto. Riporta il pensiero di un ragazzo autistico, Federico De Rosa. Se conoscete qualche persona autistica capirete quello che dice Federico, perché lui dice che le persone autistiche fanno fatica ad esprimere pensieri complessi, spesso si esprimono tramite frasi abbastanza convenzionali, molto brevi. Federico però dice che anche le persone neurotipiche, le persone neurologicamente normali, a volte si esprimono così, con frasi brevi, meccaniche, convenzionali, con il rischio che magari l'intensità emotiva del rapporto, di ciò che si vuole comunicare, in realtà viene un pochino abbassata, viene sminuita. Federico fa un esempio, dice: quando noi diciamo la parola grazie, spesso questa espressione è semplicemente un automatismo, niente di più, e allora suggerisce di provare a modificare questa parola con una frase più complessa che non sia automatica. Ad esempio, invece di dire semplicemente grazie, potremmo dire così: desidero ringraziarti perché sei stato gentile a passarmi la penna che mi serviva. Ecco, in questo modo sarà difficile che una frase del genere esca dalla bocca in modo automatico, formale, non sentito veramente. In quel caso ci verrà forse anche naturale guardare negli occhi la persona mentre le diciamo questa cosa. Starete dicendo: perché tutto questo discorso? Perché il punto è proprio questo: comunicazione convenzionale oppure comunicazione autentica. Certe volte, in certi momenti, ci è difficile essere autentici, spontanei, naturali, perché magari siamo imbarazzati dalla situazione. Dobbiamo fare una preghiera a un matrimonio, dobbiamo esprimere il nostro dolore, le nostre condoglianze a una persona cara. Dobbiamo magari ringraziare per un qualcosa di particolare che abbiamo ricevuto. Come fare a trovare le parole giuste che non siano parole però convenzionali, formali, automatiche? Ma io credo che il segreto fondamentale consista in questo: se quella frase che stiamo dicendo o che stiamo scrivendo può andar bene per qualunque persona, allora stiamo certi che non è la frase giusta. Insomma, la persona che ami, ogni tanto potrai anche dire qualche frase da baci perugina, ma non sarà mica la normalità, sarà l'eccezione, non la regola, io credo. Insomma, la parola d'ordine è personalizzazione. E adesso vediamo tre indicazioni pratiche su come fare. Primo, usa la memoria. Fai riferimento a qualcosa di concreto, di vissuto, a un episodio. Ad esempio, devi preparare una frase per un matrimonio di un tuo amico. Prova a pensare a qual è quella volta in cui tu hai pensato: veramente, questi due sono fatti l'uno per l'altro. E allora metti per iscritto quello che hai pensato in quel momento, racconta quella situazione, pensa che proprio attraverso quel gesto, quella parola, quel modo di rapportarsi, proprio in quel momento tu hai capito che loro erano la persona giusta l'uno per l'altro. Se conosci una persona veramente, troverai facilmente un episodio al quale agganciarti per esprimere il tuo pensiero. Secondo, sottolinea un aspetto del carattere o della personalità. È mancata una persona e devi andare a casa dei suoi parenti ad esprimere il tuo dolore, la tua vicinanza. Mica vorrai arrivare lì a dirgli semplicemente condoglianze. Non sarebbe molto più bello trovare qualcosa di personale? Far riferimento, ad esempio, a quello che ti mancherà di lui, di quella persona, a quell'aspetto del tuo carattere che ti ha sempre colpito e che ti resterà dentro per sempre. Forse le persone, dirai, ma si commuoveranno, si metteranno a piangere. Può essere, ma sicuramente saranno lacrime che scorreranno come un balsamo per il loro dolore, perché sentire qualcosa di bello sul proprio caro che non c'è più è sempre una gioia, un'emozione molto molto forte. Quindi, secondo suggerimento, pensa al carattere di quella persona e di qualcosa proprio su di lui. Mi immagino adesso un'obiezione. Ma quindi una frase pronta proprio non si può usare? Ma certo che si può usare, ad una condizione però, che sia comunque accompagnata da un pensiero tuo, da qualcosa di personale. Supponiamo che per un battesimo trovi un bel testo, proprio bello, che parla del dono della vita. Allora scrivilo e poi alla fine metti una frase tua, del tipo: di questa frase mi è piaciuto soprattutto questo aspetto. Oppure: quando ho letto questo testo proprio ho pensato a voi e al vostro bambino, che splendido dono di Dio che avete ricevuto. Ringraziamenti, condoglianze, scuse, anniversari, matrimoni, battesimi. Diciamo basta a un tipo di comunicazione convenzionale, alle frasi fatte. Mettiamoci qualcosa di personale, è quello che fa la differenza. Prima di tutto sarà per te un'occasione molto bella di scoprire dentro di te parole che neppure pensavi d'avere. E poi farai un dono meraviglioso alle persone alle quali donerai queste parole. Parole vere, parole autentiche, parole non convenzionali, parole che vengono dal cuore. Parole che restano nel cuore.